2024 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi sigle, file, effetti sono lanciati da Valeria Bernardi che si occupa della regia. Ciao Valeria, bentornata a 2024, bentornati a tutti. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Cerchiamo ogni settimana di raccontarvi come la tecnologia ci cambia la vita. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre considerazioni, anche per le vostre domande, ma ci piace anche se fate considerazioni e dite la vostra, 800 24 00 24. Potete anche scrivere una email, potete scriverci su Facebook, sul nostro, attraverso l'account Twitter. Questa settimana partiamo da uno dei più importanti annunci che riguarda il mondo della telefonia mobile, degli smartphone. BlackBerry ha lanciato il nuovo prodotto. Si tratta sia di un terminale sia di un sistema operativo e cercheremo di capirne di più. Partiamo dalle parole di Thorstein Heinz, che è l'amministratore delegato di BlackBerry. Good morning, good day, good afternoon, good night, wherever you celebrate the launch of BlackBerry 10. Thanks for joining us here from New York to London, Dubai, Johannesburg, Paris, Jakarta, Delhi and Toronto. Abbiamo scelto questo pezzetto per farvi capire che questo è stato un evento globale. Alcuni dicono che BlackBerry si sta giocando tutto da questo evento, o la va o la spacca. Comunque ha organizzato un evento molto atteso in tutto il mondo. Infatti l'amministratore delegato non è che dava i numeri dicendo buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, ma perché tutti c'erano tanti paesi collegati con tanti eventi che sono stati organizzati nelle città più importanti del mondo. Dunque, allora, stiamo parlando di un prodotto, come dicevo, molto atteso. Da molto tempo si parla del nuovo sistema operativo di BlackBerry 10. Allora, per capirne un po' di più, abbiamo invitato Luca Figini. Luca, bentornato a 2024. Ciao a tutti, ciao Enrico, grazie. Partiamo proprio dalle caratteristiche principali di questo prodotto, che tu hai anche già usato e toccato un po', le più importanti. Ma ho avuto la fortuna di provarlo qualche minuto in anteprima al Consumer Electronics Show di Las Vegas a inizio gennaio. La caratteristica più importante dello Z10 in realtà è il sistema operativo, che poi sarà la base di tutti i nuovi smartphone di BlackBerry del 2013. Il sistema operativo è una rivoluzione rispetto a quello che è stato visto finora sugli smartphone di RIM, perché comunque RIM continua a esistere, però finalmente si propone anche questo marchio commerciale, quindi non c'è più il dualismo, ma è solo BlackBerry. È diverso perché si basa su una piattaforma completamente diversa, che è QNX, che è una sorta di Linux in miniatura. È proprio un sistema operativo nuovo. È un sistema operativo completamente nuovo. Hanno smesso di scrivere, diciamo, il loro sistema operativo, hanno acquistato QNX, adesso lo usano. Che l'hanno usato per la prima volta per il primo tablet, per il Playbook, e adesso l'hanno adattato anche allo smartphone. Questo cosa comporta? Comporta una maggiore complessità in termini di funzioni, cioè può fare molto di più. E può fare molto di più anche meglio, perché intanto la prima grande novità è che è adattato all'interfaccia touch. Quindi finalmente la notizia è che BlackBerry può combattere sul touchscreen alla pari di Android, di iPhone, di iOS e di Windows Phone. Prima subiva un po' perché era una sorta di ibrido, cioè hanno preso un'interfaccia per la tastiera QWERTY e l'hanno messa anche sul touchscreen. Quindi potremmo dire dopo 6 anni almeno arrivano sulla piattaforma completamente touch, e alcuni dicono in ritardo, cioè troppo tardi. È un po' tardi, perché potevano cavalcarla prima questa tendenza. Loro hanno puntato a mantenere consolidato il loro mercato delle tastiere fisiche, che comunque è ancora il metodo migliore per chi deve scrivere, deve messaggiare molto. Per chi deve scrivere molto sicuramente non c'è dubbio che è il metodo migliore. Sul troppo tardi poi vedremo anche come reagirà il mercato. Senti, a proposito di caratteristiche, c'è qualcosa che effettivamente distingue questo prodotto da altri? Perché guardandolo uno potrebbe subito pensare all'iPhone, perché almeno nella forma è molto simile all'iPhone. Fa tutto, e io ho letto molti commenti in questi giorni, e c'è giustamente chi ha sottolineato il fatto che non poteva non far tutto quello che fanno gli altri. C'è qualcosa che distingue questo prodotto dagli altri? Per altri intendiamo, insomma, gli smartphone top di gamma. L'interfaccia è innovativa, ha un approccio veramente innovativo. Che poi l'interfaccia sia inserita in un design che ricorda l'iPhone, questo è dovuto, diciamo, a un metodo di ragionamento tipicamente statunitense, americano, nel quale vogliono vedere forme simili per riconoscere prodotti simili. Se a questa design più o meno simile, quindi riconoscibile per un certo per un determinato mercato, è abbinata a un'interfaccia innovativa, quindi per molti versi più intuitiva rispetto a quella dell'iPhone, introduce molte novità, te ne descrivo alcune giusto per farti capire. C'è la funzione che permette di sfogliare le applicazioni come se fossero delle carte in un mazzo di carte, quindi tu tieni in mano l'iPhone con una mano, lo Z10 con una mano, sfogli le applicazioni come se stessi sfogliando delle carte, e questo è molto intuitivo perché non esci mai dall'interfaccia, mentre in altri sistemi operativi come Android e iOS ogni applicazione è un barilotto appoggiato su una superficie, lì è tutto integrato. C'è anche un tentativo con molte applicazioni di creare delle sinergie tra un'applicazione e l'altra, quindi tu continui a fare l'operazione. Per esempio ricevi una mail, modifichi il documento, messaggi con l'utente, con BlackBerry Messenger, che è l'evoluzione del BlackBerry Messenger attuali, e non esci mai dall'ambiente, come tenta di fare Microsoft, rimane in un ambiente congruo e quindi immediato e trasversale su tutte le applicazioni, senza capire quando passi da una all'altra. Questo si riflette anche in una funzione che secondo me è bellissima, che è il pick, cioè quella funzione che ti permette di spostare, facendo una sorta di movimento L col dito, l'applicazione in cui sei, lo sposti verso destra e visualizzi il pannello dei messaggi. Quindi poi in qualunque momento, qualunque cosa tu stia facendo, vedere quello che sta succedendo se ti è arrivata una nuova mail, eccetera. Altra cosa che cavalca l'onda della messaggistica è Lab. Lab è un aggregatore di contenuti dal social network, dalla mail, dall'SMS, dal tuo mondo, e lì hai una visione sintetica completa. Sì, ci stiamo provando un po' tutti a fare Lab, cioè un unico punto dove vedi tutto quello che ti succede, Twitter, Facebook, le email, gli SMS, eccetera, eccetera. Integrato col sistema operativo, finora c'era riuscito solo BlackBerry. Certo, l'interfaccia non era così avanzata, perché il bello qui è che è tutto touch, quindi tutto touch. Moderno. Paradossalmente, poi magari torniamo anche sulle caratteristiche, anche se ne potremmo citare alcune che sono simili, cioè hanno raggiunto, diciamo, gli altri, alcune che sono ancora di più, come quelle che tu elencavi prima, particolari, come, non so, la fotocamera che ti permette in realtà non di fare una foto singola, ma di scattare una foto, una serie di foto, e poi andare a scegliere quella che preferisci. Anche questa è sicuramente una novità interessante. Però a proposito del mondo touch, poi arriveranno anche i BlackBerry con la tastiera classica, quindi alcuni potrebbero dire i veri BlackBerry, però a proposito del mondo touch, paradossalmente, visto che questo è un prodotto che in primis si rivolge al mondo delle aziende, poi loro cercheranno anche di ritentare la strada del mondo consumer, però paradossalmente loro aprono ad una competizione nel mondo touch, facendo sì che tutti gli utenti che non erano abituati al touch a questo punto possano fare il confronto con il mondo touch. Tu però forse spieghi meglio questo mio pensiero. Sì, l'andare a scontrarsi sullo stesso terreno di Android, con tutte le loro versioni Samsung, LG, eccetera, e iOS, cioè sul touchscreen, inevitabilmente ti obbliga a fronteggiare, ad armi pari con questo tipo di dinamica. Nel senso, finché tu tieni fedeli i tuoi utenti sulla tastiera, loro si innamorano della tastiera, dell'interazione con la tastiera, e difficilmente andranno a valutare l'iPhone, o vedranno comunque non come si può fare un confronto. Non si può fare un confronto, esatto. E comunque non saranno neanche spinti a farlo perché sono fedeli al loro metodo di utilizzo, esatto. E anzi cercheranno un nuovo modello per tentare di avere non nuove funzioni. Non si può neanche il problema. Invece, quando tu obblighi queste persone a rimanere fedeli a BlackBerry, ma adattarsi a un metodo di interazione che è di altri, quindi Android, iPhone, di fatto vai a lottare sul loro terreno, e quindi a quel punto il confronto diventa inevitabile. Cioè tu entri nella modalità di utilizzo touch, e quindi nella modalità di utilizzo touch tu troverai tanti altri opportunità da andare quindi, a lottare. Paradossalmente il gioco potrebbe farsi ancora più difficile. si fa più difficile perché a quel punto sei obbligato a capire qual è migliore. Sì. Cioè, quando sei portato a, a valutare un'interfaccia, ti poni il problema: ma questa è veramente la migliore oppure posso provarne delle altre? Perché poi passare da QWERTY dalla tastiera fisica alla tastiera virtuale comporta anche un passaggio psicologico importante, cioè è meno precisa la tastiera virtuale, ti obbliga a rivedere determinati modi di sì, usufruire del telefono. È un po' come tu mi dicevi prima di entrare in studio, un po' come se Samsung spingesse molto Windows 8, andando quindi a proporsi sul mercato e verso utenti che potrebbero accorgersi che magari Nokia è meglio. È il motivo per cui molti non, Samsung nella fattispecie, più di tanto non spinge. Cioè ha un telefono, lo mette lì, ha anche uso e consumo degli operatori, però in una sistema operativo outsider, quindi che tenta di crearsi una terza, come, di proporsi come terza polo del mercato dopo Android e iOS, o come quarto in questo caso, quote di mercato, certo. Aprire il mercato a Samsung, che è Samsung e quindi propone prodotti di un certo tipo e con un nome di un certo tipo, di fatto fa favore a chi c'è già e chi sta puntando tantissimo. Sì, interessante questo discorso. Senti, c'è chi dice che BlackBerry potrebbe diventare solo un sistema operativo e quindi in questo caso il telefono fisico serva a BlackBerry solo per far vedere che cosa può fare questo nuovo sistema operativo, e quindi potremmo pensare che questo sistema operativo, che ne so, fra qualche mese o fra qualche anno diventi un sistema operativo anche di altri produttori di hardware. O è un'ipotesi campata in aria? Personalmente sono esattamente di quest'idea. Cioè, secondo me BlackBerry dovrebbe diventare un fornitore di servizi, perché la piattaforma di push email, cioè di mail in tempo reale, che offre è unica nel suo genere per sicurezza, per affidabilità, per tempestività. Offre una protezione, una crittografia nello trasferimento dei dati, quindi non è penetrabile ed è perfetta per esigenze di business e di grandi aziende. Fornire il sistema operativo all'interno di un altro dispositivo, magari più trendy, perché l'hardware in questo momento diventa congiunturale, cioè tutti gli hardware sono uguali, basta guardare lo Z10, le specifiche tecniche sono identiche a quelle molto di Lumia. Sì. L'hardware è fatto, ormai è fatto di mattoncini, processore ARM, memoria, display che è quello, fotocamera è quella, però cambia un po' l'estetica, ma è quella, la differenza lo fa il software. Quindi il vero confronto sullo smartphone è fatto a livello di sistema operativo. È il motivo per cui, per esempio, Firefox tenta di entrare negli smartphone con Firefox OS, è il motivo per cui Ubuntu si propone, perché è un po' quello, cioè, che Yolla Mobile si Yolla propone. Mobile, ricordo agli ascoltatori che abbiamo fatto un'intervista al responsabile tecnico di Yolla, che è un italiano che lavora in Finlandia, quindi andate nel nostro archivio. Qualche settimana fa, all'inizio dell'anno, abbiamo proposto questa interessante intervista. C'è Tizen, su cui Samsung punta per portare almeno uno smartphone di fascia medio-alta nel 2013. Insomma, il software è separato all'hardware. E quindi c'è spazio per alternative. Loro hanno uno spazio immenso perché propongono un qualcosa che nessun altro fa. Quindi separare l'hardware, che diventa congiunturale, in questo momento lo Z10 e il Q10, che il Q10 è quello che ha la tastiera QWERTY, che serve per mantenere il legame col passato, diventano la vetrina per far vedere quanto è buono il software. E il software, il metodo per rilanciare BlackBerry è di licenziarlo a per esempio a produttori cinesi che sono molto interessati. Negli occhi, sì. Alcuni manager con gli occhi a mandorla lo guardano con attenzione, perché sì. Separando, oltretutto, si otterrebbe il beneficio che va su più dispositivi, l'azienda riprende quota e quindi diventa appetibile anche per un eventuale assorbimento o tu hai citato varie. Manager con gli occhi a mandorla, io ti cito dei nomi di grossi produttori, Huawei, ZTE o addirittura Lenovo. Lenovo in pole position. Lenovo in pole position, vedremo. Un'ultima considerazione riguarda il mercato. Quando arriva sul mercato europeo e italiano? Allora, europeo già c'è la Gran Bretagna che lo offre sul mercato, invece in Italia? In Italia si parla dopo il Mobile World Congress di Barcellona, che sarà a fine febbraio, perché quello che... Quindi marzo. Sì, dopo marzo. Sì, dopo sì, marzo, sì. Quanto dovrebbe costare questo Z10? Poi vedremo gli altri. Sì, col prezzo che gira negli Stati Uniti, in Nord America e in Inghilterra è di $599, quindi verosimilmente sarà questo il prezzo. Loro tenteranno di proporsi alla fascia alta del quindi mercato. Tra i 500 e i 600 euro. Sì, sarà intorno ai 600 euro, che poi è il punto debole di questo, è il punto debole di questo progetto. Costa troppo. Costa troppo e non hai, in questa fase non hanno dispositivi di fascia bassa, che sono quelli che poi servono per poi penetrare in mercati come l'India, per esempio, come in tanti altri paesi dove non c'è propensione all'acquisto di fascia alta. Bene, grazie a Luca Figini per essere stato con noi. Tra l'altro, Luca, in Cellulare Magazine, che tra pochi giorni sarà in edicola, avete fatto proprio uno speciale sullo Z10. Sì, abbiamo colto subito la notizia, abbiamo chiuso ieri, andato in stampa ieri il cellulare, quindi in edicola fra pochi giorni. Ci sarà un mega speciale proprio sul nuovo BlackBerry. Molto bene, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a te, buona domenica a tutti. Beh, sicuramente il prezzo che alcuni ascoltatori giustamente ci chiedevano, e quindi questa è l'idea che c'è, anche se quello sul mercato italiano non è stato comunicato, dicevo sicuramente questa è una componente molto importante, perché quando uno entra in un negozio, guarda online, fa il confronto, poi cade sul prezzo e dice beh no, se devo spendere gli stessi soldi di un altro che so essere vuoi un po' più di moda, ma anche più performante, con un ecosistema, adesso non abbiamo parlato dell'ecosistema che è un'altra componente importante, effettivamente la scelta diventa sempre più difficile. Ma è certo che almeno in ambito aziendale BlackBerry con questa nuova piattaforma sicuramente manterrà le quote di mercato. Digital News. Partiamo dalla Francia, perché il governo francese e Google hanno firmato un accordo che dovrebbe mettere fine al braccio di ferro con gli editori che accusano Google di utilizzare senza pagare i propri contenuti. Allora, poi su questa accusa ci si può dibattere, perché c'è anche il lato opposto della medaglia, cioè che Google dice beh, se siete indicizzati sul mio motore io vi fornisco, vi do un sacco di traffico. Comunque, in base a questo accordo verrà creato un fondo da 60 milioni di euro per la transizione al digitale. Questo fondo sarà finanziato da Google, avrà lo scopo di selezionare progetti meritevoli nella transizione digitale, quindi immagino che gli editori o anche non editori propongano queste nuove iniziative per trasformare l'informazione dalla carta al digitale e vengano premiate. Quindi ora vedremo che cosa accadrà in Italia e in Germania, dove gli editori sostenevano e sostengono la stessa tesi dei colleghi francesi, ma sicuramente senza un analogo sostegno del governo. Digital News. L'antitrust europeo ha ricevuto in extremis, proprio negli ultimi minuti, una proposta di impegni vincolanti da parte di Google per cercare di mettere fine in modo consensuale all'abuso di posizione dominante presunto e su cui indaga ormai da un paio di anni la Commissione europea. Allora, il sospetto è che Google abusi della sua posizione dominante facendo uso di pratiche anticoncorrenziali nella visualizzazione dei risultati delle ricerche online, penalizzando alcuni concorrenti, e infatti questa indagine è scattata dopo la denuncia di alcuni concorrenti. Se non si arrivasse ad una intesa, la società rischia una multa fino al 10% del fatturato annuo. Digital News. Dal 2014 anche Toyota avrà a bordo delle proprie autovetture europee le mappe e i servizi di geolocalizzazione di Nokia, ovvero la piattaforma HERE, che è già disponibile anche su smartphone e tablet, non solo Nokia, quindi non solo quelli con sistema operativo Windows Phone 8. Allora, Nokia ha già firmato proprio nel settore auto accordi con BMW, Mercedes, Volkswagen e Hyundai. Non è un caso che la divisione Location Services ha sede in Germania, che è il principale mercato europeo per il settore automobilistico. Da ieri anche Tre ha attivato la propria rete 4G a Roma e Milano, quindi dopo TIM e Vodafone, che hanno fatto un lancio già da un paio di mesi, anzi tre mesi direi, per il momento c'è arrivata anche Tre. Manca l'appello Wind. Allora, al momento e fino al 31 marzo non è previsto, per quanto riguarda i clienti Tre, alcun abbonamento ad hoc per il 4G, ma queste nuove frequenze potranno essere utilizzate da tutti i clienti che hanno un terminale abilitato. Stiamo parlando di Nokia Lumia 820-920 con l'ultima versione del firmware, e anche sia iPhone 5, iPad mini e iPad Retina con l'aggiornamento uscito un paio di giorni fa ad iOS 6.1. Digital News. prosegue e si fa sempre più intensa l'attività di cybercrime nel mondo. Allora, questa settimana sia il New York Times che il Wall Street Journal hanno denunciato di aver subito attacchi dalla Cina negli ultimi mesi. Ieri anche Twitter ha scoperto un'attività inusuale sulla piattaforma di social network, scoprendo poi che alcuni pirati informatici, e anche in questo caso si parla di Cina, hanno acquisito alcuni dati sulle utenze di circa 250.000 iscritti. La percentuale è molto bassa su tutti gli utenti di Twitter, comunque insomma 250.000 non sono pochi. Allora, tutti gli account attaccati hanno ricevuto una email nella quale Twitter chiede agli utenti a rischio di cambiare le loro password. Quindi se non siete stati avvisati, non siete stati attaccati. A tal proposito vi ricordo che la prossima settimana, il 5 febbraio, quindi sarà martedì, verrà celebrato in tutta Europa il Safer Internet Day 2013, giornata europea dedicata alla sicurezza in rete dei ragazzi. Quest'anno siamo arrivati alla 10ª edizione. In questa occasione, visto che abbiamo parlato ampiamente di Google, continuiamo a parlare di Google, che ci ha fornito un decalogo per navigare in sicurezza, e partendo dalla password, forse questo è uno dei modi per mantenere più sicuri i propri dati. Google consiglia, ma tutti gli esperti di security consigliano, che la password deve essere lunga, complicata, composta da numeri, lettere, simboli e differente per ciascuno degli account. Però tutti sono pigri e tutti utilizzano, molti utilizzano la stessa password. Infatti, tra i consigli c'è questo: non usare mai la stessa password per il conto bancario e l'email, o comunque avere tante password e soprattutto cambiarle molto spesso. Non inviate mai la password via email, non condividetela con altri, nemmeno con gli amici, via social network, eccetera, eccetera. Evitate di rispondere a email, evitate di scrivere la password dentro alle email, eccetera eccetera. Un decalogo molto dettagliato su come essere più sicuri in rete. Magari torneremo anche su questo tema. Questo è 2024, riprenderemo tra poco dopo le notizie di GR24, parleremo del nuovo Office e parleremo di stampa 3D e anche di supercomputer. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre considerazioni o domande: 800240024. Tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Parliamo di Office. Microsoft ha presentato questa settimana la nuova versione di Office. Cambiano alcune cose, è sicuramente un prodotto che guarda molto di più rispetto alla versione precedente al cloud, quindi alla presenza online. Pensate che Office è utilizzato oggi da 1 miliardo di utenti nel mondo, e sicuramente la forza di un'azienda si basa anche sul pregresso, sulla storia. È stato lanciato in 162 paesi del mondo, in 21 lingue. Allora, partiamo dalle novità principali. Ne abbiamo parlato questa settimana con Vieri Chiti, che è responsabile della divisione Office in Microsoft Italia. In primis può essere utilizzato tramite diversi device. Lo posso utilizzare attraverso il mio smartphone, attraverso il mio tablet, attraverso il mio personal computer o laptop. E questo perché il nuovo Office ha la capacità di poter interagire attraverso strumenti tradizionali come la tastiera, ma anche ovviamente il mouse, ma un'interfaccia touch, ha un'interfaccia con il pennino. Questo consente a Office di poter navigare attraverso tutti i device che un utente utilizza normalmente per accedere alle informazioni. Il secondo aspetto interessante è che è integrato al mondo delle comunicazioni e delle informazioni che una persona ha intorno a sé. È integrato con i social, è integrato con Facebook, con Twitter, è ovviamente integrato con i sistemi di messaging come Skype, ha la possibilità di poter condividere informazioni tramite sistemi nella cloud come SkyDrive, per poter collaborare con amici all'interno del proprio nucleo di familiare o nucleo esterno o con le aziende. E il terzo aspetto interessante è che lo abbiamo reso per la prima volta fruibile alle persone, alle famiglie, tramite un modello ad abbonamento, quindi non secondo un modello di licensing tradizionale. Un aspetto sicuramente che forse distingue questo prodotto con i vecchi Office è che la presenza online è molto forte. Allora spieghiamo che cosa significa che Office non è solo un pacchetto per la produttività che si installa sul computer o su un tablet o su un computer portatile, ma è anche un prodotto online. È anche un prodotto online perché tante delle attività che noi facciamo nel gestire le nostre informazioni, nel condividere con altri, hanno bisogno di poter accedere a servizi online. Infatti nel nuovo Office è stato integrato un modello di condivisione e gestione delle informazioni tramite SkyDrive. È stata integrata la funzionalità di fonia sopra internet grazie a Skype. Questo consente di poter parlare con le persone che noi conosciamo, di poter condividere le informazioni durante la chiamata e di poter fare delle attività di collaborazione. Questi sono servizi che possono risiedere sul proprio personal computer, sul proprio tablet, ma allo stesso tempo possono risiedere nella cloud, quindi consentono sostanzialmente di accedere ai propri dati indipendentemente dal luogo o dal device che si utilizza. Quando si pensa a un prodotto online, alcuni pensano, o forse molti pensano, a un prodotto web, che sia quindi fruito attraverso il web, che non risiede sul computer. In realtà per Office come stanno le cose? Per Office le cose stanno che io posso utilizzare il prodotto secondo le due modalità. Quindi io posso accedere alle mie informazioni attraverso un modello tradizionale col software installato sul mio dispositivo, anche se poi i dati sono memorizzati nella cloud, oppure posso utilizzare una versione delle applicazioni Office che sono online, le cosiddette Office Web App, e quindi che possono fruibili attraverso qualsiasi browser, e allo stesso tempo posso manipolare dati che sono risiedono nel mio personal computer, nel mio dispositivo o sono in rete. Ecco, a proposito di abbonamenti, visto che prima abbiamo accennato a questa novità che voi avete lanciato, cioè che Office si può sì acquistare come lo si faceva un tempo, ma voi mi sembra di capire che spingiate questa possibilità, cioè di abbonarsi ad Office. Che cosa significa abbonarsi ad Office? Sì, la novità più grossa del nuovo Office è la versione cosiddetta Office 365 Home Premium, che unisce diciamo le applicazioni di Office, quelle che tutti conoscono, con una serie di servizi online avanzati e la possibilità di avere dei servizi Skype inclusi nell'abbonamento che coprono fino a 60 minuti di telefonate, con il terzo vantaggio di poter utilizzare questo abbonamento attraverso 5 differenti device. Quindi io lo posso utilizzare sul mio personal, sul mio desktop, sul mio tablet, eccetera. Lo stesso abbonamento può girare tramite 5 device e può essere utilizzato da 5 persone diverse all'interno della mia famiglia. Noi puntiamo molto su questo approccio, che è sostanzialmente un approccio che abbiamo mutuato dal modello business, perché riteniamo che l'utente privato, il consumatore, sia ancora più predisposto rispetto alle aziende nell'acquisire servizi tramite un modello sottoscrizione, perché è già abituato a farli per altre tipologie di servizi molto più legate alla vita privata, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è che noi riteniamo che si avvicinino molto di più al modo con cui le persone sono abituate a lavorare, che è un misto tra il modello tradizionale, il modello cloud, quindi un modello servizio. Questo è anche un modo per combattere la pirateria? Alla fine, per quanto riguarda il mercato italiano, lo sarà, ma non è stato pensato per questo. Il fenomeno della pirateria è un fenomeno che mediamente nel mondo non è così elevato come può esserlo in alcuni paesi, vedasi Italia. E quindi non è una strategia che guida il modello di sviluppo di Microsoft. È chiaro che potrebbe andare a limitare la pirateria che tanti danni fa nell'economia italiana, ma non è quello il punto finale. Faccio una domanda su le potenzialità di Office. Si dice spesso, poi probabilmente voi avete dei dati più precisi, che l'utente medio utilizzi poche funzionalità, c'è chi dice il 10, 15, 20% di quello che potrebbe fare il software, soprattutto nelle aziende. Che cosa pensate si possa fare, cioè che cosa pensate anche di fare per far capire, cioè per educare le persone a utilizzare queste funzioni che poi si traducono in maggiore efficienza, maggiore produttività e competitività anche di un'azienda? Certo, questo è vero, questo è un fenomeno che soprattutto negli anni passati si è verificato. Devo dire che già dalla release precedente, da Office 2010, questo fenomeno della differenza tra il potenziale e quello che poi invece faccio realmente si è assottigliato molto. Un po' perché abbiamo migliorato la nostra capacità di rendere più facilmente scopribili le funzionalità che il prodotto ha. A volte uno dei problemi è che puoi avere qualcosa di fantastico ma è ben nascosto. Dall'altra abbiamo attivato dei percorsi formativi per l'utente finale, l'utente privato, in modo gratuito, e anche per le aziende tramite i nostri partner, che hanno reso la capacità di conoscere molto molto più semplice. Tanto è vero che l'utilizzo del prodotto, come saputo con Office 2010, che è stato il release di più grande successo della suite Office fino adesso, ha migliorato tantissimo il modo con cui interagiscono le persone col prodotto, cioè la profondità di utilizzo è aumentata tantissimo. Devo dire che questo problema noi lo vediamo, è un problema ovviamente da tenere in considerazione, perché bisogna rendere le cose semplici da provare e da trovare, ma è molto molto meno sentito rispetto al passato. Un'ultima domanda riguarda Windows 8. Che tipo di relazione c'è tra questo prodotto e Windows 8, visto che l'annuncio arriva a pochi mesi dal lancio del sistema operativo? C'è un legame molto stretto. Per riassumerlo in due soli punti, potrei dire che il primo Windows 8 ha influenzato molto l'interfaccia, la nuova interfaccia di Office, perché è stato introdotto stato stressato la capacità di poter utilizzare Office tramite modelli di interazione differenti dalla tastiera, quindi touch, pennino, eccetera. Quindi in questo modo ha influenzato molto. L'altro modo con cui ha influenzato Windows 8, ha influenzato Office, è la creazione di applicazioni in formato stile Windows 8 che sono completamente touch. Faccio l'esempio Skype, come o Link o come OneNote. Terzo e ultimo, ho detto due ma mi sono sbagliato, è il modello dello sviluppo delle applicazioni, cioè come su Windows 8 c'è il marketplace delle app che io mi posso scaricare, anche per Office c'è un marketplace delle app che crescerà nel tempo e che cambia anche un po' il modello che abbiamo proposto al mercato per arricchire le funzionalità di Office. Saranno applicazioni sviluppate da Microsoft, da terze parti. Quindi differenza fondamentale tra il prodotto comprato a parte e invece questo suo abbonamento è che in questo caso i servizi online e soprattutto i servizi che abilitano più terminali, quindi smartphone, tablet, sono molto più estesi ed effettivamente uno passa da un sistema ad un altro con semplicità, si ritrova i documenti, li può riaprire con estrema facilità e quasi quasi può non interessarsi di dove risiede il file, se è online o offline. Esistono altre piattaforme, mi sembra che negli ultimi anni si siano ridotte però le piattaforme per la produttività da ufficio, c'è tutta la community di Linux che lavora ad alcuni prodotti, ma certamente non hanno tutto l'ecosistema, e proprio in questo caso forse l'ecosistema che sfrutta il cloud computing e i servizi, in questo caso di Microsoft, per altre piattaforme come ad esempio Google, le app di Google, forse in questo caso si nota e si può beneficiare di questo ecosistema molto di più di quello che offrono le piattaforme Linux, che hanno il loro spazio nel mercato e sicuramente le aziende sanno se scegliere una o scegliere l'altra. L'importante è valutarle tutte e non andare a colpo sicuro su una. Sicuramente comunque quello che è stato fatto da Microsoft è molto interessante. Era Vieri Chitti, adesso ci fermiamo per un minuto, poi sentiamo Giorgio che ci telefona da Milano. A tra poco. 2024. Giorgio ci telefona da Milano. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno. Due domande su questo utilizzo del cloud. Allora, quando mi trovo su altri computer e devo entrare nelle mie informazioni, nelle mie utilità, i suoi documenti, la posta elettronica, eccetera. Password. Certo, sì. Ecco, c'è la possibilità che questa password rimanga su questo computer oppure no? E se c'è qualche sistema per salvarsi, insomma, dall'eventuale appropriazione? Sì, questa è la prima domanda. Sì, e la seconda invece, fra tutte queste applicazioni, fra telefoni, computer, eccetera, mi sono ritrovato nella sincronizzazione a perdere i dati, a perdere email, eccetera. e volevo sapere come fare per evitare allora, questo. Alla seconda domanda è un po' complicato rispondere senza sapere quello che lei ha fatto, perché le posso dire che se uno fa le cose come vanno fatte, i dati non si perdono, ci sono sistemi, e poi dipende anche che sistemi uno utilizza. Nel primo caso, le faccio io però una domanda, lei ha una password complessa e soprattutto cambia la password abbastanza spesso? No, purtroppo, è la somma dei nomi già dei risposto miei tre figli. È perfetto, esatto, se già risposto, questo glielo sconsiglio fortemente, metta una password che si fatica, già ci ha detto una cosa che tutti i suoi amici che conoscono i suoi figli hanno già no, capito. Ma i nomi delle sigle? Ah, i nomi delle sigle, quindi però, già le sigle sono più difficili. Ecco, però già questo è un approccio sbagliato, bisognerebbe avere una password piuttosto complessa, poi uno mi dice ma come faccio poi a ricordarmela? Certo, bisogna sforzarsi a far questo e soprattutto cambiarla ogni tanto. Ad esempio i sistemi all'interno di Radio 24 e del Sole 24 Ore ti obbligano ogni tanto a cambiare la password, infatti poi trovi persone che sono lì che si arrovellano per cercare delle password nuove. Le dico un'ultima cosa, che molti dei sistemi di cloud computing richiedono anche, fanno una domanda, dicono sei su un computer conosciuto, quindi magari il tuo computer che è connesso ad internet, o sei su un computer pubblico. In quel caso, selezionando che sei su un computer pubblico, magari il servizio è in versione un po' diversa, ma la protezione è maggiore. Però anche in questo caso, se le cose si fanno bene, tutti sicuri, tutti i sistemi sono piuttosto sicuri. È anche vero una cosa che diciamo, penso dal 1999, quando è nata 2024, che la sicurezza al 100% non esiste. Ci si può avvicinare molto, un po' come girando per strada. Giorgio, grazie per aver chiamato, buon ascolto. Adesso parliamo di stampa 3D, che è un argomento estremamente interessante. Alcuni dicono che il 2013 sarà l'anno della stampa 3D, soprattutto sarà l'anno della stampa 3D per il fatto che i prezzi delle stampanti, di queste macchine che producono pezzi fisici veri e propri, si abbasseranno di molto, fino a rendere questo servizio alla portata di tutti. Già oggi ci sono prodotti che sono sicuramente inferiori ai $1,000, 1,000 euro. Saluto David Orban, amministratore delegato, CEO di DotSub e docente soprattutto alla Singularity University. David, bentornato a 2024. Ciao Enrico e ciao a tutti. Ribadiamo molto brevemente e molto semplicemente di che cosa stiamo parlando, che cos'è la stampa 3D. Attraverso diverse tecnologie di deposizione progressiva di materiali, una stampante 3D permette di prendere un progetto tipicamente dal computer e di realizzarlo nel mondo fisico. E anche una stampante 2D su carta in realtà mette un piccolo strato di inchiostro che non è di spessore nullo. E quindi puoi semplicemente immaginare come, mettendo inchiostro dopo inchiostro, in questo caso tipicamente materie plastiche, ma anche metalli o altri tipi di materiali, puoi avere un oggetto tridimensionale. E questo esisteva già in industrie di design avanzate come prototipizzazione, ma oggi appunto è disponibile anche a basso prezzo a tutti e viene utilizzato anche per oggetti che non siano solo prototipi ma possano essere di utilizzo quotidiano. Quando parliamo di basso prezzo intendiamo che ordine di cifre? Ci sono effettivamente soluzioni per tutte le tasche, possono essere 5-10 mila dollari magari per una piccola azienda, ma possono essere addirittura 1000 o 2000 dollari o euro che siano per il consumatore. Ci sono aziende, la MakerBot per esempio di New York, che offre una stampante a 2000 dollari addirittura adesso di terza generazione, con capacità di realizzazione di oggetti ad altissima risoluzione, ad una precisione molto molto elevata. Senti, si può fare di tutto con queste stampanti o ci sono dei limiti? Cioè, diciamo anche in prospettiva, possiamo pensare che si possa stampare, ma in realtà poi diciamo produrre di tutto? In prospettiva, il punto di arrivo ideale della tecnologia è quello che chiamiamo produzione nanotecnologica, dove c'è il controllo fine atomo per atomo dei materiali. ci sono quelli a partire da Eric Drexler negli anni 80 che prevedono la possibilità anche di meccanismi di autoassemblaggio. Oggi naturalmente non siamo ancora lì. E la limitazione attuale più importante è che le stampanti orientati ad una diffusione di massa a basso costo gestiscono un solo tipo di materiale. Quindi, se vuoi fare un oggetto che invece è composto da diversi tipi di materiali, questa fase di assemblaggio ulteriore lo dovrai comunque fare a mano. Quindi la stampante 3D oggi fa parte di un mondo di smanettoni che non smanettano più sul computer via software e basta, ma si riavvicinano a quello che magari qualche anno fa veniva chiamato il mondo del bricolage, per un bricolage avanzato gestito dal computer. Quindi molto semplicemente partendo da un file, e oggi quando parliamo di stampa pensiamo al file di testo che poi noi andiamo a stampare, oppure una fotografia, un grafico, eccetera, eccetera. Beh, in questo caso da un progetto che sicuramente è un po' più complicato da costruire, anche se il software ci aiuta, possiamo arrivare ad un oggetto fisico. Negli Stati Uniti mi ha colpito un dibattito che è stato alimentato anche da una serie di interviste, una serie di prese di posizione di un deputato, di un membro del Congresso, Steve Israel, che dice: "Beh, io voglio vietare la stampa di armi." E a questo punto uno dice: "Ma come? Perché si possono addirittura produrre le armi?" Beh, c'è un'associazione, un'organizzazione no profit che si chiama Defense Distributed, che pensa proprio a questo, cioè a quella di mettere in comune dei progetti per stampare dei pezzi che poi assemblati formino un'arma. Ci dobbiamo preoccupare o è una parte, una deriva del dibattito che insomma, dobbiamo seguire, ma senza preoccuparci più di tanto, David? Dobbiamo assolutamente preoccuparci per preservare la natura di calcolo universale che questi nuovi meravigliosi mezzi tecnologici promettono. Già oggi viviamo in un mondo dove per accordo commerciale e di protezione degli interessi economici delle grandi aziende, molti oggetti di uso comune hanno subito delle restrizioni che a posteriori non necessariamente vediamo utili. Se tu infili un DVD comprato negli Stati Uniti nel tuo lettore del computer, questo non necessariamente lo riproduce. Se vuoi installare un programma qualunque sul tuo iPhone, se Apple non ha dato il proprio consenso, il telefono si rifiuterà. Quindi, se siamo d'accordo di vivere in un mondo dove sono altri a determinare quello che possiamo fare con gli oggetti che abbiamo pagato e che supponevamo poter utilizzare per un qualunque scopo, allora è questa la strada su cui andremo avanti anche relativamente alle stampanti 3D. Se invece vogliamo che questi possano servire per la ricerca, per l'educazione, per anche la realizzazione di modelli aziendali che sconvolgono e vanno in concorrenza con quelli prestabiliti, pensa per esempio alla possibilità di stampare pezzi di ricambio a radicalmente più basso costo rispetto a quelli ufficiali prodotti in larga scala e quanto questo può sconvolgere gli equilibri. Se queste opportunità le vogliamo e le vogliamo sfruttare, allora è importante difendere l'universalità e la non limitazione delle stampanti 3D. Relativamente alle armi, è una provocazione che apre il dibattito. Sì, naturalmente insomma, sulle armi gli elementi da tenere in considerazione sono ampi, però giustamente tu dici che questa è una provocazione per parlarne. Infatti, ad esempio, oggi ne parliamo anche per questo motivo, perché mi ha colpito questo dibattito e mi ha anche stupito da un certo punto di vista. Tuttavia, immagino che bisognerà parlare aumentando anche il livello di discussione di copyright, perché se io oggi posso copiare una canzone, copiare un film, piratare una canzone o un film, beh, non oso pensare quello che possa succedere se io pirato un progetto di un pezzo di ricambio che è stato costruito con investimenti, tutelando appunto la proprietà intellettuale, io mi copio il progetto e mi stampo a casa il pezzo di ricambio. Assolutamente. Quello che secondo me è importante è di imparare dalle lezioni della guerra decennale che abbiamo vissuto relativamente agli interessi delle grandi etichette musicali o dell'industria di Hollywood, e che ha comportato tutta una serie di legislazioni a livello appunto di estensione del copyright, e di chiederci qual è la possibile legislazione futura che massimizza il valore alla comunità, incentivando la creatività e gli investimenti necessari. Ci sono esempi anche oggi di come piccole o grandi aziende cercano di abbracciare questo futuro. Nokia, per esempio, ha rilasciato i progetti CAD per la copertura del retro del proprio telefono Lumia, affinché tutti possano, a precisioni perfette, sbizzarrirsi a inventarne di nuovi tipi. Autodesk, che è uno dei leader della progettazione al computer, ha un'app per iPhone gratuita che permette di inquadrare degli oggetti, per esempio una scultura in un museo che per fortuna ha il copyright già da secoli che non lo protegge, e riprendere una decina o un centinaio di fotografie che poi il software assembla automaticamente in un modello 3D che poi si può mandare per la stampa o stamparsi in casa. Un ultimo esempio che ti menziono esce dalla Singularity University, dove appunto io sono docente, e un team degli studenti di quest'estate ha formato una società chiamata Authentize, e che vuole valorizzare proprio la catena di fornitura da design di alto pregio eseguiti in pezzi unici, non so, in oro o quello che possa essere, per arrivare alla base molto più ampia di fan, di appassionati che possano avvantaggiarsene non a danno del progettista originale, ma diffondendone la conoscenza, diffondendone la popolarità. Questo è un po' anche la maniera con cui oggi i musicisti più creativi nella gestione anche del proprio brand cavalcano quella che è la passione non più limitata dal DRM, dalla protezione dei brani musicali di quelli che li seguono. Quindi ci sono molti esempi positivi di come si può abbracciare il futuro della stampa 3D. David, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a te. Allora, chi ci chiede fate degli esempi? Beh, si possono fare tantissimi esempi. Pensate ad un oggetto complesso che può essere costruito e fatto di tanti pezzi. Se questi pezzi, attualmente molte delle stampanti 3D stampano plastica fondamentalmente, o comunque un polimero, beh, si possono costruire tante cose. Un giocattolo, una lampada, un vaso, un bicchiere, insomma, qua basta usare la fantasia, si possono già fare tantissime cose. Ricordo ai nostri ascoltatori che di stampa 3D, oggi abbiamo solo accennato a questo fenomeno che molti, come ripeto, dicono sarà uno dei fenomeni del 2013, abbiamo parlato ampiamente nella puntata del 20 ottobre, quindi andate nel nostro archivio www.radio24.it, cliccate su 2024, andate nell'archivio e lì cercate e riascoltate la puntata del 20 ottobre. Abbiamo invitato dei ragazzi di una startup fiorentina, Kent Strapper, è scritto così, con la K iniziale, Kent Strapper, che ad esempio offrono stampanti a meno di 1000 euro, addirittura si spingono fino a 600-700 euro. Molto interessante, fenomeno estremamente interessante. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, 2-3 minuti, per ritornare tra poco. Tra poco ci trasferiremo al Cineca, vicino a Bologna, dove c'è uno dei più grandi supercomputer del mondo. Tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 che troverete anche attraverso il servizio podcast di Radio 24. Abbonatevi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che a proposito dell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa assieme a David Orban, David Orban è un docente di un'università americana che si chiama Singularity University. Allora, Accelera, che è l'associazione degli ex studenti e simpatizzanti italiani della Singularity University, lancia proprio oggi un concorso che offre una borsa di studio da $30,000, quindi non male, ad un italiano che vuole partecipare ai corsi di questa innovativa università americana. Metteremo un link nella nostra pagina Facebook, quindi Singularity University, soprattutto Accelera, che è l'associazione degli ex alunni. Allora, sono stato questa settimana al Cineca, vicino a Bologna. Il Cineca è un consorzio formato da 54 università, centri di ricerca, Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica. È una struttura dove c'è un supercomputer che viene utilizzato anche da aziende per fare calcolo, per fare progetti. Allora, al Cineca questa settimana è stato presentato il primo prototipo di un nuovo supercomputer, il supercomputer, tra l'altro italiano, più potente al mondo. Progetto molto interessante. Allora, iniziamo però da quello che c'è già, quindi dalla sala principale del Cineca. Ecco la nostra intervista. Siamo a Casalecchio di Reno, siamo vicino a Bologna, siamo al Cineca. Il Cineca è sicuramente uno dei poli di supercalcolo più potenti al mondo. Siamo con Sanzio Bassini, che è il direttore del dipartimento che si occupa proprio del supercalcolo. Però Bassini, siamo in una sala, sicuramente gli ascoltatori sentono in sottofondo un rumore. Siamo in una sala dove c'è il supercomputer che sta al nono posto tra i supercomputer più potenti al mondo. Ci dica due cose su questa macchina gigantesca. Sì, è una macchina che abbiamo installato a metà dell'anno scorso. È composta da 150.000 processori che lavorano contemporaneamente sullo stesso lavoro ed è inserita nell'ambito dell'infrastruttura europea per il supercalcolo, di cui l'Italia è uno dei paesi principali, assieme a Francia, Spagna e Germania. Questi quattro paesi hanno deciso di investire notevoli, ingenti quantità economiche, 100 milioni di euro su 5 anni per ciascun paese, in termini di costo complessivo di investimento in infrastruttura tecnologica e in investimento in competenze, quindi risorse umane, per supportare il sistema europeo della ricerca che accede a questi sistemi di calcolo, di cui la macchina del Cineca è uno dei nodi principali, mediante chiamate internazionali per progetti il cui processo di selezione è basato sul merito scientifico e sulla maggiore qualità della ricerca possibile. Obiettivo di questa attività di ricerca è di mantenere competitivo dal punto di vista socio-economico il sistema italiano, visto che noi siamo, come dire, particolarmente attenti, ma non solo, il sistema europeo in termini più generali. Ecco, infatti, che cosa ci si fa con un supercomputer di questo tipo? Le attività maggiori che sono svolte in termini di ricerca riguardano fondamentalmente quattro ambiti principali: scienza dei materie materiali, cambiamento globale del clima, quindi ambiente, clima e applicazioni collaterali, come per esempio quella della meteorologia e dello studio della oceanografia, fisica degli stati condensati, quindi la parte relativa alla comprensione della struttura della materia, ivi compreso l'ambito della fisica delle alte energie, quindi quello della fisica teorica di base delle particelle, e da ultimo gli aspetti relativi alle applicazioni di fluidodinamica. Le applicazioni di fluidodinamica sono poi particolarmente interessanti perché hanno anche delle ricadute industriali e quindi applicative dal punto di vista diciamo del trasferimento tecnologico, tant'è che è stata avviata recentemente una iniziativa per aprire, sulla base di quello che è il merito dell'innovazione, i sistemi di calcolo dell'infrastruttura europea PRACE, di cui il Cineca appunto con la sua macchina è un core member, anche ad applicazioni industriali. Ecco, a tal proposito è interessante capire quanta di questa capacità di calcolo possono utilizzare le aziende, perché oramai buona parte, se non tutta, la progettazione di qualsiasi cosa, probabilmente anche dello yogurt, viene fatta attraverso supercalcolo. Dunque, per quello che riguarda l'infrastruttura europea, una frazione che potenzialmente non ha limite, l'obiettivo però è quello di supportare quelli che sono attività di trasferimento tecnologico che hanno l'obiettivo di indirizzare l'innovazione, non tanto il quindi consolidamento yogurt, e la produzione. Abbiamo su altre piattaforme, perché il Cineca ha un'altra sala macchine per cosiddetti servizi a valore, che invece sono aperti a quello che è l'utilizzo da parte del sistema delle imprese per attività di progettazione in senso più ampio. Quindi è sicuro che al tempo attuale molte attività di progettazione avvengono mediante progettazione virtuale, mediante prototipi virtuali piuttosto che non prototipi reali. Questo perché processi di questo tipo consentono di ridurre i costi e ridurre il famoso time to market, il tempo di sviluppo del progetto e dunque di immissione di nuovi prodotti sul mercato. Senta, ci spieghi che rapporto c'è tra competitività di un paese e capacità di calcolo? Perché sembrano due cose lontane, in realtà poi si capisce che quasi tutti i paesi, se non tutti i paesi che sono fortemente competitivi a livello economico, strategico, militare addirittura, hanno super computer, in primis gli Stati Uniti. Sì, non c'è dubbio. Recentemente c'è stato uno studio a cui abbiamo partecipato, dico abbiamo in senso ampio, intendo dire il sistema dei centri di supercalcolo in Europa, che ha affiancato la Commissione Europea relativamente a quello che è lo stato dell'arte dell'high performance computing in Europa. Il risultato dello studio è stato il seguente: attualmente in Europa c'è un investimento complessivo che non è in linea con quello che è l'investimento che avviene nelle altre aree del mondo, Stati Uniti, Giappone, Cina e Russia, ma è un po' al di sotto. La raccomandazione che è emersa da questo studio è di raddoppiare nel corso dei prossimi 5 anni gli investimenti che gli Stati membri e la Commissione europea si è assunto l'onere di aprire il percorso e ha dichiarato che raddoppierà la quantità di finanziamento per la ricerca in ambito high performance computing. Il processo è presente a questo punto a livello degli Stati membri, perché appare assolutamente evidente che la disponibilità di sistemi di calcolo avanzati sono abilitanti a quello che è lo sviluppo industriale e anche la risposta a quelle che sono le grandi sfide socio-economiche del nostro tempo. Per menzionarne alcune, la disponibilità di energia, o se vogliamo il risparmio energetico, le tecnologie per il risparmio energetico o per la produzione mediante fonti rinnovabili, gli aspetti relativi alla salvaguardia dell'ambiente, la cura personalizzata delle malattie, quindi tutto quello che è lo studio delle scienze della vita e da ultimo la capacità di poter in un qualche modo rendere confortevole quello che è il sistema dei trasporti, la parte ovviamente aeronautica e aerospaziale, ma fino alla capacità per esempio delle automobili e quindi del trasporto anche personale di poter essere ecocompatibile e anche ecosostenibile. Quindi abbiamo già scoperto che un supercomputer non è poi così tanto distante dalla nostra vita di tutti i giorni, cioè con un supercomputer si fanno cose che poi ci toccano molto da vicino. Senta, visto che lei ci ha detto che il budget, almeno l'obiettivo è quello di raddoppiare il budget destinato al supercalcolo in Europa, stiamo parlando di che tipo di investimenti? Noi, lo ribadiamo, siamo nella sala macchine principale del Cineca, dove c'è il nono computer più potente al mondo. Quanto costa una cosa del genere? Anche per sottolineare, immagino io, poi ce lo spiega lei, che quello che si riesce a estrarre, il valore che si riesce a estrarre da macchine del genere è molto più elevato di quello che si riesce a estrarre, che ne so, da un chilometro di strade, da un chilometro di gallerie, dove spendiamo ancora un sacco di soldi. Ma sicuramente in termini di conoscenza e di supporto all'innovazione. In questo momento il Cineca, su mandato del Ministero dell'Università della Ricerca, ha assunto l'obbligo, assieme, dicevo, a analoghe istituzioni presenti in Spagna, in Francia e in Germania, di esaurire un investimento di circa 20 milioni di euro all'anno su 5 anni, dunque 100 milioni di euro su 5 anni, in termini di costi per l'investimento, l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine, il personale necessario alla gestione e al supporto delle applicazioni e l'environment, inteso come l'edificio, la sala macchine, il sistema di raffreddamento, il sistema di distribuzione di energia. Quindi vuol dire che spendete una ventina di milioni all'anno. Esatto. Per curiosità, di energia quanto spendete? Che frazione di questi 20 milioni? Tanto. In questo momento il Cineca, complessivamente, considerando la sala macchine principale, che è quella in cui ci troviamo, e la sala macchine secondaria, che è a fianco, ha un consumo di energia elettrica di 4 megawatt di energia puntuale, di assorbimento puntuale. In termini di costo complessivo, questo equivale a un costo di circa 3 milioni e mezzo di euro l'anno, quindi è una frazione visibile, tant'è che stiamo lavorando in modo piuttosto attento e assiduo a capire quali possono essere le nuove tecnologie che possono consentire di mantenere il trend di sviluppo. Noi ci siamo dati l'obiettivo di incrementare la potenza di calcolo di un fattore 20, come per tradizione. La tradizione del Cineca è che ad ogni nuovo passaggio tecnologico la potenza a disposizione del sistema della ricerca, e della sia pubblica che privata, si incrementi di un fattore 20. In questo momento la potenza disponibile è nell'ordine di 2 petaflop. Abbiamo nella nostra roadmap ordine di grandezza 40-50 petaflop per il prossimo ciclo tecnologico, con l'obiettivo di non incrementare il budget e dunque i consumi relativi alla parte di consumo elettrico. E quindi è particolarmente importante parlare di sistemi ad alta efficienza energetica, sistemi di calcolo ad alta efficienza energetica. Parola d'ordine: risparmiare energia ma avere la stessa potenza di calcolo, meglio, aumentare la potenza di calcolo. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Dicevamo che uno degli obiettivi è quello di creare supercomputer più efficienti, poi a cascata tutte queste tecnologie arrivano anche nella vita di tutti i giorni. Allora, macchine che elaborano più dati più velocemente consumando meno energia. Allora, un primo importante risultato è stato ottenuto dalla Eurotech, un'azienda italiana che ha presentato proprio al Cineca, anche perché il prodotto è stato realizzato in collaborazione col Cineca, il supercomputer più efficiente al mondo. Gianpietro Tecchiolli è il CTO di Eurotech. Oggi presentiamo, diciamo, la prima generazione di supercomputer ibridi che combina le tecnologie convenzionali, diciamo Intel x86, con le tecnologie di accelerazione messe a disposizione da Nvidia attraverso le sue unità di elaborazione grafiche. Quindi un supercomputer che ha processori tradizionali e GPU, quindi unità grafiche. Esattamente, perché la grafica è un cliente molto importante in termini di potenza di calcolo, perché per fare un qualunque rappresentazione grafica, come vediamo nella maggior parte dei videogiochi eccetera, è necessaria un'elevata capacità computazionale che noi sfruttiamo per metterla a disposizione in applicazioni più convenzionali nell'ambito della simulazione scientifica, del calcolo ingegneristico, dell'elaborazione di grandi mole di dati, eccetera. Perché dite e diciamo che è il supercomputer più efficiente al mondo? Perché il nostro sistema è il sistema che è in grado di erogare potenze di calcolo equivalenti a quelle, diciamo, dei nostri competitor, ma utilizzando una quantità di energia decisamente inferiore. Stiamo parlando in questo caso specifico del 30% di energia in meno rispetto a quello che oggi, sulla base della classifica diciamo riconosciuta a livello internazionale dei computer più efficienti, quello che oggi sarebbe il computer numero uno. Allora, questo risultato è stato ottenuto in vari modi. Allora, l'innovazione più importante è sicuramente rappresentata dal raffreddamento ad acqua. Non è la prima volta che si raffredda un computer come si raffredda il motore di un'automobile, ma è la prima volta che il risultato finale è così efficiente. Il sistema è raffreddato a liquido, quindi il calore viene rimosso sostanzialmente da acqua che fluisce all'interno della macchina e viene portata direttamente dentro gli scambatori di calore che sono montati sui componenti. Quindi sul processore, sull'unità grafica, eccetera, eccetera. Qui, al contrario di quello che avviene spesso, non sempre, ma siamo abituati sul nostro computer di casa, ad esempio, dove c'è una ventola. Esatto, le ventole per girare hanno bisogno di energia e non solo, fanno anche rumore, quindi da un certo punto di vista il fatto di usare un raffreddamento liquido rende la macchina anche più amichevole, può essere facilmente installata in ambienti dove normalmente le persone vivono e lavorano. Oggi normalmente i supercomputer sono molto rumorosi, proprio perché c'è rumori generati da migliaia di ventole che sono installati. Infatti in sottofondo un po' sentiamo il supercomputer all'interno del quale noi siamo. Allora, il primo punto su cui avete agito è quello dell'efficienza nel raffreddamento. Possiamo dire qualche cosa in più, perché la macchina è così efficiente che può essere addirittura raffreddata con acqua a temperatura molto elevata, cosa che può sembrare strana. Sì, sì, sostanzialmente noi diciamo che la macchina può essere raffreddata con acqua calda, che sembra strana effettivamente, no? Vuol semplicemente dire che noi possiamo utilizzare per raffreddare, fra virgolette, la macchina acqua a temperatura ambiente, cioè non è necessario utilizzare acqua raffreddata per portare via il calore dei componenti. La differenza di temperatura tra i componenti e l'acqua che circola dentro il computer è di circa 20 gradi. Questo significa che io posso perfino usare acqua a 50 gradi, che non è acqua fredda, è acqua calda, acqua a 50 gradi, che riesce a mantenere comunque tutti i chip a temperatura inferiore alla loro temperatura massima di funzionamento, che può essere 80-90 gradi, visto che noi garantiamo i 70 gradi, questi 20 gradi di differenza. E quindi in qualunque zona del mondo la macchina è installata, anche nei posti più caldi del pianeta, comunque la temperatura esterna non supererà mai i 50 gradi. Anche nel deserto si può fare. Anche nel deserto. No, infatti questa è una cosa dal nostro punto di vista importante, soprattutto per paesi caldi come l'Italia. Probabilmente saprà che ci sono grossi data center o grossi utilizzatori di data center, tipo Google, Facebook e Microsoft, che hanno scelto i paesi nordici dell'Europa per le loro installazioni dei grossi data center, proprio per sfruttare un clima più freddo, che così costa di meno raffreddare l'acqua. In questo caso voi dite Google, Facebook, Microsoft, eccetera, eccetera, venite nel sud Italia. Venite per esempio in Sicilia. Ecco, noi possiamo mettere a disposizione soluzioni che offrono la stessa efficienza energetica, però in paesi caldi. Col vantaggio che nei paesi caldi magari si riesce a sfruttare anche un fotoelettrico, che in Norvegia magari è meno possibile, no? Questa innovazione italiana. E così concludiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Torniamo sabato prossimo. Grazie a Valeria Bernardi, che si è occupata della parte tecnica, a Giorgio De Luca e anche Rosa in centralino. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.